mentre stavo pensando a questa pagina del Vangelo, mi è venuto la voglia e sono andato a rivedermi la scena della collina, del film di Pasolini. Se avete occasione, avete l'opportunità, addocchiatela. È forse una delle immagini più... Vabbè, chiuso la parentesi. La scena è che il popolo vede, i discepoli vedono, il popolo ascolta, i discepoli non capiscono tanto, però ascoltano. Intanto è che il messaggio più profondo Gesù non lo fa nel Tempio, lo fa all'aperto, là dove la gente vive, dove ogni uomo, ogni donna si trova a coltivare i propri desideri, i propri progetti, a ricercare la propria felicità. Con questo brano del Vangelo è come se si aprisse uno scenario sulla vita di Cristo. Sale sul monte, si mette a sedere, discepoli intorno, suggerisce la strada da seguire. Mi permetto, tra le tante considerazioni, i tanti punti di vista che vengono suggeriti e del come leggere queste beatitudini, mi permetto, dentro comunque una corretta interpretazione del testo, un po' di analisi di questo testo, mi permetto di riflettere insieme con voi dicendo: siamo di fronte a una parola alta, a una parola dura, a una parola opaca, paludosa, a una parola aperta, trasparente. E provo a seguire questo itinerario. Una parola alta, che dà una sensazione di cogliere l'essenziale della vita di ogni persona. Perché mette il dito nelle domande decisive dell'esistenza, che sollecita naturalmente una risposta. Perché siamo qui? Sempre la domanda dei bambini, ma è la domanda che ritorna. Forse perché saremo qualche volta bambini, ci poniamo ancora questa domanda. Quant'è davvero il centro irrinunciabile della nostra fede, della nostra vita? Non il contorno, ma il cuore. Sappiamo di tante nostre frammentazioni quanta fatica, quanta parzialità investe anche i linguaggi più forti. Voglio dire, quando ci troviamo da soli con noi stessi, quando valutiamo la consistenza della nostra vita, forse riusciamo a osare le domande ultime, quelle che comunque coinvolgono fino in fondo i desideri profondi di pace, di felicità, di giustizia, bisogna imparare anche a pronunciare la parola fraternità, sororità. E ci viene voglia di metterci alla ricerca della strada, appunto quella dei beati. Ecco una parola che invita ad alzare lo sguardo dal basso, se volete, cioè dal penultimo, dalla penultima parola, dal relativo, dalla fatica, guardare verso l'alto, l'ultimo sguardo, quello definitivo della nostra vita. Ecco perché è una parola alta, ma è anche una parola dura. Dura perché non si può facilmente comprendere e tantomeno vivere. Parola che, se volete, affascina. Però è una parola che sembra risultare un cartello indicatore di direzione. Quello che il Vangelo ci ha indicato come meta radiosa, beati sono, saranno. E qui la storia personale di comunità, di popoli, rivela come ci sia la strada impervia. È una parola dura perché è una parola contro. Una parola cioè che denuncia la nostra fatica o la nostra incapacità di incarnare nella nostra vita, nella nostra storia, questa speranza della beatitudine. La domanda che brucia dentro oggi: ma è ancora possibile parlare di cristianesimo ancora più duro oggi? Nei nostri contesti è ancora possibile parlare di fede in Cristo? Facili sono i nostri contorcimenti ogni volta che proviamo ad illuminare con queste parole il nostro arrancare o il nostro anche essere felici. Una parola dura e vorrei dire anche pericolosa per coloro che da questa parola sono detti beati. È una parola pericolosa. Allora un altro passaggio è che questa parola è una parola molte volte opaca. Una parola paludosa, perché è facile affogare i poveri, i mansueti, gli operatori di pace, gli affamati di giustizia, i perseguitati, le persone in lutto, le persone che hanno perso il senso del loro vivere. Si sentono davvero beati? Non si arrischia di vendere vetro per diamanti, tanto per intenderci. Si annuncia che nel regno hanno un posto di privilegio. È possibile credere a questa promessa? Le promesse Ma chi sono i beati oggi? Chi sono coloro che si possono considerare felici? Sembra una parola soggetta al sospetto. È una parola sporcata, perché è usata magari per consolare. Oh Dio, quante consolazioni! Volgarmente, quante pacche sulle spalle! Che è diverso dal tenere la mano a chi sta soffrendo, e tanto più sta morendo. Sembra una parola soggetta a rassicurare, piuttosto che far risaltare la dignità delle persone. Una parola addomesticata, una parola per elite, non per tutti, una parola ascoltata indifferita, cioè nell'aldilà, nell'aldilà. Una parola da chiudere dentro a chiave, dentro il tempio, dentro le pratiche religiose. No, non ci sta dentro, non ci sta dentro nelle pratiche religiose, o comunque non solo nelle pratiche religiose. E quindi è una parola difficile, impossibile da pronunciare. E da ultimo però, una parola di speranza, perché sennò, boom. In realtà è una parola aperta. Infatti è una parola non definitivamente chiusa dalle nostre fatiche, dai nostri tradimenti, dai nostri dubbi, dai nostri mali. Una parola aperta al futuro, non ancora realizzata, ma possibile. Fortunatamente è fuori dal nostro monopolio. Non è che la possiamo masticare, addomesticare, adoperare per altri fini. È una parola fuori dal nostro monopolio, dalle nostre stesse confessioni religiose. Cioè, è una parola laica, detta agli uomini di ieri, di oggi e speriamo anche di domani. È una parola laica in un certo senso che invita a superare i luoghi comuni. Si guarda alla storia degli uomini prima delle confessioni religiose. Le confessioni religiose hanno diviso e hanno oscurato questa parola. Per questo il nostro moto dell'anima di fronte a questa pagina è: lasciamoci meravigliare, almeno quello, lasciamoci meravigliare. Chiudo. La fede è credere in questa promessa, credere nella possibilità di percorrere questa strada senza paura. È un Vangelo, quello che abbiamo ascoltato, che ogni volta ci fa pensosi e ci lascia anche disarmati, oltre che stupiti. Perché? Perché non c'è prova di garanzia. c'è lo strumentino scientifico che dice, ah ecco, è vero così, per queste affermazioni. Sono parole che seducono, e attenti, parlo per me, non so per voi, riaccendono la nostalgia della speranza. Conquistano la fiducia. Sono parole difficili e amiche. Non sanciscono nuovi precetti, nuove regole. Non sono l'annuncio che Dio regola vita a chi produce amore. Sono l'annuncio che Dio regala vita a chi produce amore. E questo si chiama la nostra felicità. E ancora una volta ho peccato di tempo, della pazienza vostra. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra.